da quel ricordo. Perché è bene ricordare ciò che ci ha fatto star bene, perché è meglio ricordare quello che ci ha fatto male. Chi sbaglia non impara, questa è una gran vecchia storia, e chi sbaglia invece paga, ognuno ha il conto con la storia. Non pensare che sia giusto quello che ti è stato detto. Ricordo che a parlare non ci vuole un grande esperto. Gira pagina di nuovo e scrivi tu la nuova storia. E chi pensa di sapere non sa il succo della storia. E sì, corrono i pensieri. E sì, oggi più che ieri. E sì, corrono i pensieri. Dai, guarda quel sorriso. Se ricordo, poi ci penso e non voglio quel ricordo. Sai, voglia di volare. Direzioni errate, con parabole fatate. Chi ti guida verso il cielo, nell'orgoglio e la virtù. È come quando eri bambino, dai non ci pensare più. E non pensare che sia giusto quello che ti è stato detto. Mi ricordo che a parlare non ci vuole un grande esperto. Gira pagina di nuovo e scrivi tu la nuova storia. Per chi pensa di sapere, ha già perso la sua strada.